L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, abbiamo aspettato tanto, ma alla fine a Parigi sembra essere stato trovato un accordo, soddisfacente o meno, tra poco ne parliamo, per fermare il riscaldamento del pianeta. E questo è l'annuncio, sentiamo. En cette circonstance probablement historique, mais qui ont agi et lutté. Questo è un momento probabilmente storico, dice, come sentite, molto commosso il presidente della COP21 di Parigi, che è il ministro degli esteri francese Laurent Fabius, secondo il quale questo testo è ambizioso, equilibrato e giuridicamente vincolante. A quanti gradi fermare il riscaldamento del nostro pianeta? Non è solo questo l'indice di riuscita o meno della conferenza delle parti, perché i tasselli, come sentiremo tra poco, sono davvero tanti. Comunque la decisione è caduta su una dicitura well below, quindi ben al di sotto dei 2 gradi, se possibile si aggiunge anche 1,5 gradi. L'annuncio che la bozza di accordo era finalmente pronta e adesso al vaglio finale delle delegazioni internazionali è arrivata mentre in centro a Parigi di nuovo si erano radunati molti manifestanti per chiedere un impegno forte per il clima. E adesso dovremmo avere in collegamento con noi Giada Connestrari, fotografa. No, la stiamo cercando ancora. Abbiamo in collegamento con noi nel frattempo Emanuele Bonpan, ricordo, geografo, giornalista specializzato in cambiamenti climatici. Io l'ho conosciuta a Parigi, da dove sono rientrata proprio ieri notte. Emanuele, benvenuto. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Allora, Emanuele ha seguito tutto l'andamento della trattativa. Io ho conosciuto i suoi scritti su BioEcoGeo, ci tengo a dirlo perché tutti coloro che ci ascoltano potranno d'ora in poi magari seguirti anche su internet e appunto vedere come hai vissuto. Anche in edicola, esattamente. Però se vogliono vedere la cronistoria della COP21 è meglio che vadano su internet, no? Certo. Allora, certo. Vediamo se siamo riusciti a raggiungere Giada. Ancora non siamo riusciti a raggiungerla, era molto emozionata per questo collegamento con la radio, forse si è nascosta, vediamo un po'. Comunque mi ha detto che le manifestazioni in centro a Parigi sono state davvero bellissime, sono state molto gradevoli e piacevoli. Io speravo di poter sentire da lei il racconto di questa mattinata, ma ci dobbiamo addentrare necessariamente a questo punto nel testo che è stato presentato dal ministro Fabius, come dicevamo. Abbiamo in collegamento gli altri ospiti, chiedo alla regia. Abbiamo in collegamento Emanuele Bonpan, con il quale io comincio a cercare di approfondire la prima questione, cioè cosa sta succedendo ora? Questo testo, prima di tutto, si vota o non si vota? Perché qui si spargono voci diverse. Questo testo semplicemente si cercherà, come dire, il consenso, l'Assemblea delle Nazioni Unite, come sempre funziona sull'elemento consensuale, ovvero l'approvazione di tutte le parti, e quindi se ci sarà questo consenso, quindi se non ci saranno rimostranze dirette da parte di uno dei membri della conferenza delle parti, il testo passerà attraverso il complesso rituale di approvazione, perché poi insomma c'è tutta una ritualistica legale, legislativa, per cui il testo richiede l'approvazione, è stato di un trattato internazionale, quindi insomma è un testo importante che poi dovrà essere ratificato, verrà presentato ufficialmente, firmato non oggi ma ad aprile del 2016 presso l'Assemblea delle Nazioni Unite, che hanno annunciato ci sarà un evento di alto livello per appunto la sigla definitiva di questo testo. Quindi dovrà anche essere ratificato dai parlamenti nazionali? A seconda di qual è il framework legale di un paese. Noi, ad esempio, il nostro Presidente della Repubblica che firma i trattati, altri paesi, ad esempio gli Stati Uniti, hanno il congresso americano, per cui c'è anche, mi sembra, una specie di gabola legale per cui gli americani hanno inserito nel testo questo linguaggio per accelerare l'approvazione di questo testo. Adesso gli altri sistemi legislativi dei vari paesi del mondo non li conosco, ci sarà il presidente, alcuni l'assemblea generale, in altri il principe, secondo insomma un pochino di qual è la forma democratica del paese, repubblica. Certo, ognuno ha, sono 195, quindi chiaramente ciascuno, certo, ha i suoi modelli. Abbiamo la monarchia alla repubblica costituzionale. Federico Brocchieri in collegamento con noi, Italian Climate Network, grazie anche a te per essere in nostra compagnia. Buon pomeriggio a tutti, grazie a voi per l'invito. Allora, abbiamo cominciato col dire cosa sta succedendo adesso, se questo testo si vota o no a Parigi. Abbiamo detto di sì, dovrà essere ratificato, alcuni sì, altri no. Io direi di cominciare ad affrontare quelli che sono i punti più noti o controversi. Io ho cominciato con il dire quello che ha detto il ministro Fabius, cioè che il riscaldamento del pianeta, secondo questo accordo, dovrà essere contenuto sotto i 2 gradi, ben al di sotto, meglio se 1,5 gradi. Non è un indice preciso della riuscita di questo accordo, Federico, no? Ci sono anche altri temi pressanti e importanti. Sì, assolutamente, però devo dire che la menzione esplicita del 1,5 gradi è comunque un risultato importante. È chiaro che questa è una visione a lungo termine per la fine del secolo, per cui a questo obiettivo andrà poi accompagnata una strategia ben più chiara e definita per arrivarci, ovviamente. Quindi serviranno dei target intermedi che indichino magari nei prossimi anni dove arriveremo al 2050, una cosa che alla fine non è stata inserita in questo testo, che era in una delle bozze precedenti, ovvero di avere un target quantitativo per la metà del secolo, che però, insomma, ecco, nonostante non sia incluso, non significa che non arriveremo a questo punto nei prossimi anni prima dell'entrata in vigore dell'accordo, come sappiamo, nel 2020. Però ecco, sì, questo è sicuramente un punto importante. Poi ce ne sono anche molti altri. Devo dire che il fatto che si sia visto per iscritto che gli INDCs, quindi questi contributi nazionali volontari che tutti si stanno presentando, debbano essere revisionati sempre a rialzo, è una cosa importante. È importante anche la differenziazione che si è fatta tra i paesi. Stavo appunto finendo di leggere, mi sembra di capire, interpretando il testo, una prima analisi, che si sia giunti una sorta di tripla differenziazione, nel senso i paesi sviluppati, i paesi di risviluppo e un riconoscimento speciale per i paesi più vulnerabili, quindi le piccole isole e l'East Developed Countries. Quindi, insomma, mi sembra, come ha detto il ministro Fabius, sia un testo molto equilibrato, e ci sono 2 cose che vorrei sottolineare molto brevemente. La menzione dell'equità intergenerazionale, addirittura in 2 parti nel testo, una proposta che abbiamo presentato proprio noi come giovani nel corso dell'anno, e che è stata inserita per la prima volta nella storia in un trattato delle Nazioni Unite, quindi il rispetto dei diritti delle generazioni future. E stavo appunto vedendo, è stato inserito un articolo molto breve, ma è stato inserito sull'educazione. Quindi tutti i paesi dovranno collaborare per incrementare l'educazione e la partecipazione pubblica nei processi legati ai cambiamenti climatici. Quindi ecco, se dovessi fare un primo bilancio, poi ecco, dovrei finire di analizzare il testo nel dettaglio, però mi sembra tutto sommato un testo positivo, insomma. Poi chiaramente sono delle cose da vedere e da migliorare. Beh, certo, e poi appunto ci sono anche dei temi da approfondire, perché io sto chiedendo il vostro parere quando il testo è stato pubblicato da poco, e quindi voi, come i delegati, in questo momento lo state leggendo, insomma. Emanuele Bompan, ti pare anche a te che siano questi alcuni delle, così, cioè, dei temi nuovi, importanti da sottolineare? Insomma, c'è, come dire, una conferma di tante aspettative. Ovviamente c'è la questione finanziaria, che rimane appunto la segnalazione di questo fondo globale per il clima da 100 miliardi di dollari l'anno, che si dovrà movimentare a partire dal 2020, con responsabilità divise tra paesi sviluppati che dovranno finanziare questo fondo. E dall'altra parte i paesi in via di sviluppo, soprattutto quelli meno sviluppati, e i paesi insulari, quelli più esposti agli effetti del cambiamento climatico, che saranno gli stati che riceveranno i finanziamenti. Non abbiamo ancora letto in dettaglio il linguaggio, ci sarà da capire come sarà fatta questa divisione, che è stato uno un po' degli elementi problematici. Ci sono i paesi sviluppati oggi e i paesi in via di sviluppo, una categoria nata nel 1992 con il primo accordo per creare questo negoziato sul clima, Rio, per il summit della Terra. Oggi una categoria che, come dire, non traccia più la reale identità degli stati, con paesi di nuova industrializzazione come Cina, India, Brasile, che non sono stato più economie in via di sviluppo. Altri elementi di interesse per gli ascoltatori di Radio 24, sicuramente il fatto che rimane la finanza del carbonio, quindi i meccanismi di carbon trading. Una nota negativa, che non so se ha detto Federico Brocchieri, il fatto che invece di avere la decarbonizzazione come strategia per raggiungere questi 2/1,5 gradi centigradi, si perseguirà la carbon neutrality. Cosa significa in 2 parole? La decarbonizzazione è un processo di riduzione delle emissioni tramite una riduzione dell'uso del petrolio, del carbone, del gas, insomma, principali combustibili fossili. La carbon neutrality invece è una strategia per cui nel conteggio si inseriranno anche le foreste, che servono come strategie per assorbire la CO2, ma anche meccanismi come il carbon capture and storage, meccanismi di stoccaggio e cattura del carbonio. Sono altri punti, se volete possiamo approfondire. Dimmi No, via li approfondiamo, però finalmente abbiamo trovato Giada, allora facciamo una piccola pausa di respiro, diciamo così. E Giada, sei in collegamento con noi a questo punto? Sì, sono qua. Eccoti, finalmente ti abbiamo trovata. Allora, ho letto che eri in mezzo ai tamburi, quindi non riuscivi a sentire il telefono. Dove sei in questo momento? Allora, siamo davanti alla Torre Eiffel. La manifestazione è cominciata a Argentine, vicino all'Arco del Trionfo. È stata alla fine autorizzata dalla polizia, a differenza della prima manifestazione del 29, che era invece stata proibita. Sta andando avanti in maniera pacifica, estremamente bella. I manifestanti sono tutti vestiti in rosso a ricordare le vittime del cambiamento climatico, quella che chiamano una guerra, e ci sono portano tutti tulipani rossi e una lunghissima striscia rossa che attraversava la strada fino praticamente ad arrivare all'Arco del Trionfo, a ricordare la linea del termometro rossa che continua a salire. C'è quindi un ambiente bellissimo, pacifico, festivo. E molta polizia? Molta polizia? C'è della polizia, ma rispetto al 29 veramente poca e comunque tranquilla. Insomma, nel senso che non ci sono stati né lacrimogeni né cariche di nessun tipo. Quindi sì, il percorso è controllato ovviamente, ci sono degli elicotteri che volano sopra la manifestazione, però non ci sono stati problemi e scontri di nessun tipo, almeno fino al momento, ma credo che fra poco la manifestazione comincerà a terminare. Sicuramente faranno 2 minuti di silenzio, sempre per ricordare le vittime del cambiamento climatico e delle problematiche ambientali, e credo che si terminerà fra un'oretta circa. Ti volevo chiedere 2 cose. La prima è che se lì si è saputo, diciamo, nel momento in cui il ministro Fabius annunciava che l'accordo era stato raggiunto, ecco, se lì si è saputo e si è festeggiato in modo particolare, diciamo così. Allora, no, qua non penso che si sia saputo, nel senso che la manifestazione è stata organizzata da una coalizione storica che veramente ha avvicinato moltissime associazioni e attori della società civile variate per organizzare appunto una manifestazione molto grande e coordinata. Le persone si muovono al suono della cornamusa, che vengono suonate quando insomma è ora di spostarci, però io non ho sentito personalmente annunci sull'accordo. Mi sembra piuttosto che le persone siano qua per chiedere, almeno quelli che manifestano, un cambiamento più radicale, nel senso che lo slogan principale è cambiamo il sistema, non il clima, seguito da un mondo migliore possibile. E i manifestanti chiedevano, adesso io sinceramente non ho seguito l'accordo. No, però era per capire se, non so, se era saputo e quindi più o meno gioia. No, la manifestazione era programmata e sono andate avanti parlare, così. Non ho visto cose particolari. Hai fatto delle belle foto? Sì. Ho fatto delle belle, speriamo di sì. Le vediamo? Sì, credo di sì. Le vediamo domani allora, speriamo. Sulla stampa? Speriamo. Allora, domani andiamo a controllare la firma in calce alle foto che verranno pubblicate. Grazie a Giada Connestrare in collegamento con noi dal centro di Parigi. Allora, io vorrei tornare tra pochissimo, abbiamo un minutino prima di una piccola pausa. Federico, quando il ministro Fabius dice che questo è un testo giuridicamente vincolante, che cosa significa? Allora, questa è una questione molto delicata. Facciamo un piccolo abboccamento, perché poi avremo più tempo per discuterlo dopo la pausa. Dacci un'idea. Diciamo, di base l'espressione legally binding, cioè legalmente vincolante, non ha un significato ben definito, nel senso che ad esempio un trattato legalmente vincolante ha un significato diverso negli Stati Uniti piuttosto che in altri paesi. La cosa importante è che questo sarà sì un trattato legalmente vincolante, ovvero un trattato per iscritto con norme fra più paesi. Questo è l'unico significato che discende direttamente da quell'espressione. Per quello riguarda invece il grado di vincolo dei vari paragrafi contenuti all'interno dell'accordo, bisogna andare a vedere il termine che è utilizzato a livello di ogni singola frase. Quindi in particolare, quando noi vediamo l'espressione shall piuttosto che should, o piuttosto che facciamo will, la differenza. Poi capiamo, esatto, capiamo da quello, perché in realtà diciamo è un accordo sì legalmente vincolante perché ci sono delle norme, però poi nessuno avrà la possibilità in un accordo di questo tipo, che nasce da un approccio cosiddetto bottom up, quindi dal basso verso l'alto, di imporre sanzioni in maniera diretta. E le conseguenze potrebbero esserci in maniera tuttavia indiretta ai suoi paesi. In particolare, se i paesi non rispettassero i propri obiettivi, potrebbero perdere la possibilità di accedere a dei finanziamenti piuttosto che a degli strumenti di mercato. Quindi da una parte è vero dire che nessuno potrà forzare i paesi a rispettare i propri obiettivi, dall'altra però, essendo per la prima volta un accordo universale, quindi vede la partecipazione di tutti i paesi che non partecipavano a Kyoto, come gli Stati Uniti, la Cina e via dicendo, la reputazione a livello internazionale sarà qualcosa di molto più importante di quanto si potrebbe pensare, per cui in realtà i paesi saranno in qualche modo indirettamente vincolati a fare quello che hanno presentato. Allora, facciamo la pausa che avevamo detto, ci ritroviamo tra pochissimo. Deborah, ti piacciono ancora le favole? Mi piacciono sì, soprattutto adesso che è quasi Natale, ne stiamo scrivendo una insieme. Io, te, i nostri ascoltatori e Andrea Vitali. Eh sì, sino alla vigilia di Natale daremo vita a una grande favola collettiva. Ogni giorno, all'interno di Cuore e Denari, io darò un incipit nuovo e i nostri ascoltatori potranno completarlo scrivendo un pezzo di favola sul sito di Radio 24. Il migliore verrà poi letto in trasmissione e riceverà il nostro libro Secondo Canto di Natale. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini, stiamo ovviamente parlando della COP21 di Parigi, abbiamo una bozza di accordo, a questo punto se ne discute, se ne parla e noi cerchiamo di approfondirla con Emanuele Bonpan, geografo e giornalista specializzato in cambiamenti climatici, e Federico Brocchieri dell'Italian Climate Network. Fino a poco fa abbiamo detto, ci siamo lasciati sul giuridicamente vincolante, Brocchieri ci ha spiegato un po' qual è la situazione. Io vorrei ritornare con Emanuele alla questione della differenziazione degli tra paesi sviluppati e in via di sviluppo e cercare di capire se siete riusciti nel frattempo a vedere se c'è un meccanismo che ci dica quando da paese in via di sviluppo si diventa paese sviluppato e quindi si passa a contribuire allo sviluppo dei paesi che sono ancora indietro. Cioè, allora, sinceramente io personalmente non l'ho ancora trovato, sono arrivato all'articolo 9 e mi sono concentrato su altri temi per il momento, che quel meccanismo. Ci sono buone notizie, non legate appunto a questo ma legate ad altri elementi. Si parla nel preambolo di climate justice, che è un linguaggio molto forte, cioè la giustizia climatica, come dire, è considerato un tema importante perché include anche tutta la questione dei diritti umani. All'articolo 13 Federico Brocchieri faceva notare che c'è il tema dell'educazione altrettanto importante. Sul meccanismo di come appunto si deciderà la lista dei paesi sviluppati in via di sviluppo, credo che rimanga ancora quello che si era detto anche in conferenza stampa col ministro dell'ambiente italiano, ovvero un meccanismo volontario, quindi un paese che vuole decidere di passare dai paesi in via di sviluppo ai paesi sviluppati può farlo. È come dire, è anche un'opportunità, perché naturalmente chi movimenta finanza per progetti climatici, quindi sia di riduzione che di mitigazione, favorisce anche la propria economia interna, perché pensiamo ad esempio l'opportunità per un paese come l'Italia, che è un paese sviluppato che finanzierà appunto progetti di rinnovabili, di adattamento e mitigazione, per le imprese può essere un'opportunità, quindi per tanti paesi sviluppati o comunque paesi in via di sviluppo che si possono dichiarare sviluppati, pensiamo al Vietnam, alla Corea, paesi che oramai stanno entrando di diritto nel cerchio dei paesi industrializzati possono vedere un'opportunità in questo accordo per lo sviluppo economico del paese, della propria green economy. Allora, andando rapidamente, perché noi abbiamo ancora pochi minuti, poi dovremo chiudere, la questione loss and damage è stata affrontata? Uno di voi due ha avuto modo di vederla, oppure come era ieri, era accantonata, ovvero no, le perdite dei paesi che possono subire alluvioni, cataclismi per colpa del cambiamento climatico? No, assolutamente c'è, penso che Federico forse ha analizzato anche i dettagli, c'è proprio l'articolo, se non sbaglio, 5, quindi come dire un successo questo per i paesi meno sviluppati, per le piccole isole, quindi i paesi più esposti agli eventi sia catastrofici, da un lato, il testo lo ribadisce, sia catastrofici che incrementali, quindi come gli eventi lenti, come l'innalzamento delle acque, l'erosione del suolo, questi fenomeni che non sono appunto un evento catastrofico, ma che lentamente vanno a incidere sulla resilienza e sulla sicurezza del paese. Sul dettaglio esatto, forse Federico ha qualche parola da aggiungere, che so che è un grande esperto di questo tema. Federico? Mi sentite ancora? Sì, certo, forte e chiaro. Sì. Per quello che riguarda questo meccanismo, c'è da dire che ancora non c'è un linguaggio che determina impegni stringenti. Tuttavia per la prima volta lo abbiamo menzionato in maniera anche piuttosto dettagliata, quindi come dicevo prima la differenza qui la fanno molto le parole, proprio nell'ambito di cosa dovranno poi implementare i paesi e sul grado di vincolo, ecco, insomma. Però mi sembra sia molto buono perché sono elencati tutti i sistemi e i punti su cui bisogna lavorare, quindi dallo sviluppo di sistemi di allarme per anticipare eventi estremi a strategie per gestire le emergenze, a per ridurre i rischi, quindi migliorando i sistemi infrastrutturali, quindi insomma c'è quello che serve dentro, bisognerà lavorare nei prossimi anni per migliorare il linguaggio che lo accompagna. Mi sembrate entrambi tutto sommato abbastanza soddisfatti, forse siete soddisfatti perché il risultato è questo o perché le premesse erano assai peggiori? Federico, cominciamo testa. Federico. Vai. Questo è un punto molto importante perché appunto l'esito della conferenza dovrebbe essere sempre valutato sulla base di quelle che erano le aspettative per il singolo meeting. Questa conferenza era importantissima di per sé, però non bisogna mai dimenticare che era parte di un percorso, per cui quest'anno si esaurisce un percorso durato 4 anni e ne inizierà un altro adesso per tutto quello che riguarda l'implementazione. Per quelle che erano le mie aspettative, ma da una parte anche un po' i timori di non vedere riconosciuti quelli che erano i temi più importanti, io sinceramente per un po' ho temuto che l'accordo sarebbe stato anche più, diciamo, decisamente inferiore e meno ambizioso rispetto a quello che abbiamo oggi. Il loss and damage non era affatto sicuro, sarebbe stato inserito, non era affatto sicuro che avremmo avuto l'obiettivo di 1,5 gradi menzionato, non era affatto sicuro avere l'equità intergenerazionale presente in 2 parti del testo e potrei andare avanti ancora a lungo, quindi sicuramente non è l'accordo che risolve il problema. Però è un buon inizio. Questa è una cosa che bisogna sottolineare in maniera chiara. Però è un buon inizio, esatto, perché qui a Parigi non era purtroppo più alla portata di questa conferenza il raggiungimento dell'obiettivo dei 2 gradi, cioè l'avere degli impegni che ci garantissero già da adesso di mantenere entro la fine del secolo la temperatura su almeno sotto i 2 gradi o addirittura 1,5. Questo era fuori dalla portata di Parigi, io credo che oggi abbiamo messo le basi affinché questo obiettivo si possa raggiungere nei prossimi anni. Però che sia ben chiaro, non possiamo prenderci un giorno di vacanza. Di riposo, certo. Emanuele, il tuo parere prima di chiudere. Ma guarda, io la sto raccontando in questo modo, anche attraverso i nostri articoli, una doppia ottica. Da un lato quella della politica reale, della politica economica, che chiaramente vede questo accordo come un successo. Mettere insieme 195 paesi nel mondo multipolare di oggi è sicuramente un successo diplomatico. Si mette la base per veramente un sviluppo economico che per la prima volta non ha come base il petrocapitalismo, ma ha come base uno sviluppo di tipo di mercato, ma comunque fondato su un principio che è lo sviluppo sostenibile, che va in qualche modo a coronare un lavoro nato nel 1972, prima con la conferenza di Stoccolma, poi nel 1992 con la conferenza di Rio, quindi un'alternativa, non magari l'alternativa che tanti sognano, ma sicuramente un'alternativa di mercato, ma orientata a uno sviluppo low carbon e sostenibile. Io vi devo salutare, ecco dai, vai velocissimo, velocissimo. Quella è quella dei diritti, quello che chiaramente quando si parla con le popolazioni indigene, che loro vivono tutti i giorni a contatto con la madre terra, dal loro punto di vista forse questo non è il migliore degli accordi, perché servirebbe più urgenza, servirebbero più diritti, servirebbero più inclusione e, come dire, meno aiuti alle grandi imprese e più aiuti alle popolazioni locali, alle popolazioni indigene e alle produzioni territoriali. Questa è una base, sicuramente i cittadini ci devono costruire, possono adoperarsi per fare il loro lavoro, per portare questa conferenza ben oltre a quello che è contenuto nel testo. Grazie ai nostri ospiti Emanuele Bonpan, Federico Brocchieri, grazie a Paolo Corleoni in regia, a Cristian Goldoni in assistenza. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora.